Guarda, quest'anno, se possiamo dirlo, siamo molto soddisfatti della proposta, innanzitutto perché riusciamo a seguire un po' la linea del binario, quindi musica sicuramente per curiosi, mi piace dire, nel senso progetti nuovi soprattutto, nuovi album, sia su Bologna che su tutta la penisola, insomma. E partiamo domani, siamo belli carichi, stiamo finendo le ultime tinteggiature, diciamo, e domani finalmente torna la musica, che per il binario è fondamentale, insomma. Ti posso dire che appunto domani si comincia con Califà, con E e Fabrizio Puglisi in duo. Venerdì invece abbiamo l'orchestra Ciolo con la partecipazione di Pasquale Mirra come special guest. E poi via dicendo, sia su luglio che su fine agosto e settembre andiamo a presentare tutta una serie di progettini, niente male. Te ne cito giusto alcuni, dai Winstons a fine luglio, il 24, a Sempaglia a fine agosto. Poi c'è questo progetto molto bello di Torino, dei Toon, Torino Unlimited Noise, in inizio settembre. E poi abbiamo anche il duo Petrella Mirra, sempre verso il 17 esattamente. Ecco, visto che in calendario c'è anche Quando tutto diventò blu, che è un progetto del fumettista Alessandro Baronciani, che ce ne ha parlato poche settimane fa, insomma, anche qui dalle nostre frequenze, insieme a Corrado Nuccini. Sì, guarda, è uno delle, secondo me, degli eventi più affascinanti, diciamo, soprattutto perché si sposa benissimo con la cornice, che è quella del parco, che quest'anno abbiamo riallestito sempre in tutta sicurezza, e siamo curiosi perché sia tramite le proiezioni che tramite l'atmosfera naturale della Montagnola, secondo noi può uscire un bel salottino. Ecco, sono come dire, tutti appuntamenti gratuiti. Sì, assolutamente. Noi continuiamo con la nostra linea, anche quella dell'alta accessibilità di tutti gli eventi, quindi sull'estivo assolutamente gli eventi sono gratuiti. Chiediamo la cortesia, insomma, magari di prenotarsi, visto che per la normativa Covid, come tutti sapranno, i posti sono limitati. Per questo su ogni evento c'è il numero di telefono, insomma, che si può ritrovare. E niente, siamo lì ad aspettarvi a braccia aperte. Diamo qualche riferimento su dove trovare il programma, gli eventi, eccetera. Sì, guarda, sia sulla pagina diretta del Binario 69 di Facebook, sia sulle pagine di Montagnola Bologna e di Arci Bologna si possono ritrovare tutti gli eventi con tutte le informazioni del caso.